Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 17:06 in questo istante, nuovo appuntamento con Focus Economia. Di cosa vi parliamo oggi? Oggi parleremo del piano per il Sud, un piano annunciato dal Presidente del Consiglio, anche se non ci sono ancora molte cifre, ma sicuramente l'argomento ha suscitato molte polemiche tra maggioranza e opposizione. E poi torneremo sulla sanità, su quel documento uscito dal Ministero del Welfare venerdì che prevede del commissariamento di Campania e Molise, e faremo un discorso ovviamente molto più ampio sul sistema sanitario italiano, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista tecnico. Spazio poi ai mercati e in particolare poi spazio alla situazione di risanamento della società Risanamento. Oggi è in calendario un nuovo consiglio di amministrazione alle 17 questo pomeriggio, nel frattempo il titolo è sospeso in attesa di comunicato. Cercheremo di capire di qualcosa di più dopo che le banche hanno trovato un accordo finanziario. Però prima di cominciare una panoramica su ciò che sta accadendo sui mercati dopo un avvio positivo questa mattina. In questo momento i mercati europei sono contrastati, Parigi cede uno 0,19%, Francoforte guadagna uno 0,07%, Londra invece cede lo 0,31%, a Milano va meglio, il FTSE Italia All Share guadagna lo 0,68%, il FTSE MIB lo 0,60%. Dall'altra parte dell'oceano il Dow Jones cede uno 0,42%, il Nasdaq lo 0,62%, lo Standard & Poor's cede lo 0,44% in questo istante. Ma adesso le nostre notizie in breve. Partiamo dal petrolio, risale il greggio, apertura a New York in rialzo dello 0,6% a $68.44 al barile. L'Euribor a tre mesi, il tasso che le banche utilizzano fra loro per i prestiti trimestrali e che è applicato ai mutui a tasso variabile, è sceso oggi di un punto base allo 0,91%, segnando un nuovo minimo storico. Un dato positivo che arriva dagli Stati Uniti e che per qualche istante aveva concesso ai listini americani un po' di fiato: le vendite di abitazioni nuove negli Stati Uniti a giugno hanno segnato un balzo mensile dell'11% a 384.000 unità a tasso annuo. Il dato è di gran lunga superiore alle previsioni degli analisti che si attendevano un rialzo del 3%. Nonostante questo però c'è chi ha qualche problema, appunto il mercato immobiliare inizia a mostrare segni di ripresa, ma non per il segretario al tesoro Timothy Geithner, che dopo aver lasciato per mesi la propria casa di New York sul mercato in vendita è poi stato costretto ad affittarla, pensato un po', per $7.500 al mese. In febbraio, quando è stato nominato alla guida del Dipartimento del Tesoro, è stato costretto a trasferirsi a Washington e Geithner aveva messo in vendita la propria abitazione per $1.63 million. In maggio aveva ridotto il prezzo di $60.000 circa, ma non è riuscito evidentemente a venderla, e poi dopo poche settimane l'abitazione risultava affittata per $7.500 al mese. Geithner aveva acquistato questa abitazione nel 2004 per $1.6 million e quindi il prezzo finale di vendita fissato dal segretario era inferiore a quello pagato al momento dell'acquisto 5 anni fa. Veniamo a una notizia un po' più seria. In Europa si fa più pressante il rischio insolvenza per le carte di credito e le banche del vecchio continente si stanno preparando ad affrontare la minaccia di una bolla nel credito al consumo che ha già colpito gli Stati Uniti con perdite di miliardi di dollari. Questo è quanto emerge da un rapporto del Fondo Monetario Internazionale in cui si stima che in Europa verrà bruciato il 7% circa dei 1.730 miliardi di euro del credito al consumo, mentre negli USA andrà perso il 14% dei circa 1.900 miliardi di dollari totali. Citigroup si appresta a ridimensionare la sua presenza in Italia. Secondo quanto riportato oggi dal Financial Times, la banca americana è infatti alla ricerca di acquirenti per le sue attività italiane nel private banking. La cessione, che si inserisce nel programma di ristrutturazione globale che Citigroup sta portando avanti attraverso la vendita di asset non strategiche, provocherà una riduzione degli addetti della banca in Italia da 1.000 a 500 circa, con la maggior parte dei posti di lavoro tagliati nel credito al consumo, le cui 65 filiali verranno chiuse. Veniamo in Italia, tornano a salire i rendimenti dei fondi pensione. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Covip, la commissione di vigilanza sul settore, nei primi sei mesi dell'anno i fondi pensione negoziali hanno messo a segno un incremento del 2,5%, mentre per quelli aperti l'aumento è stato del 3%. Si tratta di dati in ripresa rispetto all'andamento registrato nel 2008, quando si era avuto un calo rispettivamente del 6,3% e del 14%. E sempre dati Covip, aumentano le adesioni totali alle forme pensionistiche complementari. Alla fine di giugno si contano oltre 4,9 milioni di iscritti, in crescita dell'1,8% rispetto a dicembre 2008. Veniamo al risanamento, di cui parleremo appunto anche nel corso del programma. Sospesa delle contrattazioni a Piazza Affari in attesa di un comunicato, questo è quanto ovviamente ha riferito oggi Borsa Italiana. Oggi pomeriggio è in agenda una riunione del consiglio di amministrazione del gruppo per esaminare il piano di salvataggio messo a punto dalle banche. L'offerta presentata dalle quattro banche creditrici per salvare la società è pari a 500 milioni di euro, questo è quanto ha indicato un banchiere lasciando la sede di Banca Leonardo, dove si è tenuta una riunione fiume volta proprio a trovare un accordo per risanare i 3 miliardi di debito che pesano sul gruppo dell'immobiliarista Luigi Zunino. E veniamo alla questione Sud. Silvio Berlusconi annuncia lo sblocco in tempi rapidi dei fondi FAS per il Mezzogiorno e un piano innovativo per il rilancio del Sud. In una nota il Premier precisa, tra l'altro, le preoccupazioni espresse da alcuni parlamentari del centrodestra troveranno quindi e presto una risposta concreta e adeguata. Non mi preoccupano infine le uscite e i comportamenti che sono con evidenza riconducibili a recriminazioni e a richieste di potere di tipo personale e che si è invano cercato di coprire come fossero attenzioni verso il destino del Mezzogiorno. Si dice convinto della necessità di aumentare il sostegno alle regioni del Mezzogiorno il capogruppo del PDL alla Camera, Fabrizio Cicchitto, che ascoltiamo al microfono di Vincenzo Miglietta. Un nuovo partito sarebbe un controsenso rispetto alla semplificazione del sistema politico italiano da cui è nato il PDL, che ha avuto grandi consensi nel Mezzogiorno. Il problema vero è quello di accentuare una politica per il Mezzogiorno, specie per quello che riguarda un sistema interregionale di infrastrutture di cui parla Berlusconi nel comunicato di ieri. È un'occasione per il Sud che deve vedere l'ingresso in campo di nuove realtà imprenditoriali, del sostegno di nuove risorse, ma anche di evitare l'assistenzialismo e le dispersioni clientelari che ci sono state nel passato. Allora, tutto questo gran parlare di Sud e dei fondi destinati al Mezzogiorno ha scatenato un dibattito piuttosto acceso tra maggioranza e opposizione. Dopo gli annunci del Premier Berlusconi, attendiamo che il governo passi dalle parole ai fatti. Ci aspettiamo che provveda rapidamente al reintegro dei fondi FAS e all'effettivo varo di un piano straordinario per il Sud. Questo è quanto ha affermato Arturo Iannaccone, parlamentare responsabile nazionale del Dipartimento Welfare e Sanità del MPA. Su questo ovviamente è intervenuta anche l'opposizione. Il PDL e il governo hanno tradito tutti gli impegni che avevano preso nei confronti delle persone che vivono nel Mezzogiorno. Questo è quanto ha detto Franceschini oggi a Udine. E poi ancora, sempre da parte del Partito Democratico, non saranno le mirabolanti promesse di Berlusconi a cambiare la sorte del nostro Mezzogiorno, abbandonato da questo governo che ha usato i fondi destinati al Sud come un bancomat. Questo ha dichiarato Marina Sereni, vicepresidente dei deputati del PD, che ascoltiamo sempre al microfono di Vincenzo Miglietta. Abbiamo denunciato più volte che questo governo è nemico del Mezzogiorno. Non c'è una politica né di rigore né di sostegno al Sud. Le risorse che erano destinate al Mezzogiorno sono state distolte per altri usi, come una sorta di bancomat. Oggi il Sud si ribella tardi, perché noi avevamo proposto in molte occasioni di dare più attenzione, più risorse e più iniziative concrete per il Sud. E non poteva mancare neanche il commento di Antonio Di Pietro, Italia dei Valori. Che cosa dice? Soldi per il Mezzogiorno sperperati per aiutare i furbetti, questo è quanto ha detto Di Pietro al microfono di Vincenzo Miglietto. L'Italia dei Valori da sempre ribadisce che questo governo fa le sigle, fa i contenitori, ma di contenuti non fa nulla. E dei fondi da mettere a disposizione per il Sud li ha tutti sperperati per venire incontro ai furbetti del quartierino, da Alitalia fino alle altre trovate, ed oggi quei soldi sono spariti. Per questa ragione noi condividiamo le preoccupazioni di tutti coloro che in nome del Sud rilanciano una inversione di rotta, ma non ci preoccupano i partiti quanto i comportamenti e le persone. Allora, dobbiamo dire che buona parte, anzi quasi la gran parte della questione ruota intorno ai cosiddetti fondi FAS, i finanziamenti destinati alle aree sottoutilizzate per il 90% al Sud, ma che per il momento il governo ha dirottato su altri capitoli ritenuti più urgenti a causa della crisi. Ci spiega tutto questa scheda del nostro Paolo Piacenza. Il Fondo per le aree sottoutilizzate è lo strumento con il quale da diversi anni lo Stato italiano rafforza i fondi strutturali dell'Unione Europea destinati a colmare il divario di sviluppo delle zone più povere del Paese. In origine le risorse per il periodo 2007-2013 avevano raggiunto la ragguardevole cifra di 63,2 miliardi, di cui l'85% destinato alle regioni del Mezzogiorno. Ma già con la manovra della scorsa estate il FAS aveva subito un decurtamento di 12,5 miliardi sul periodo 2009-2011, soldi che venivano assegnati ad altre opere di interesse strategico nazionale, pur nel rispetto del criterio dell'85% al Sud. Le regioni hanno denunciato il taglio come una violazione delle loro attribuzioni, un atto di centralismo, anche se è innegabile che in passato molte di esse, specie nel Mezzogiorno, abbiano utilizzato male queste risorse, come altre di origine nazionale o comunitaria. Tuttavia, sulla gestione del FAS da parte del governo c'è anche un'altra contestazione. Come denunciato da più parti, ai soldi del FAS l'esecutivo ha finora attinto per necessità estranee alla natura del fondo. Dall'operazione sulla prima casa, ai contributi per gli allevatori delle quote latte, ai finanziamenti a Roma e Catania, fino ai contratti di servizio con le ferrovie. La goccia che ha fatto traboccare il vaso delle rivendicazioni delle regioni meridionali è stata però la bocciatura del piano della regione Sicilia da 4,3 miliardi. Ora l'annuncio del Presidente del Consiglio potrebbe sbloccare la situazione, ma resta da capire quanto rimanga a questo punto di quegli oltre 63 miliardi. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. E allora avete sentito un po' che cosa succede, che cosa è successo di questi fondi FAS. Bisogna dire che questi fondi sono, insieme al capitolo della sanità, uno di quegli argomenti di cui le regioni aspettavano di parlarne con il governo. Doveva esserci un incontro già la scorsa settimana, poi sollecitato dalla conferenza delle regioni a questa settimana, non ci sarà. Abbiamo sentito poco fa, abbiamo raggiunto il presidente, il portavoce delle regioni e presidente a sua volta della regione Emilia-Romagna, Vasco Errani. Perché? Perché non solo il FAS, ma anche appunto la questione della sanità. E vi ricordiamo che venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha deciso di commissariare il sistema sanitario di Campania e Molise. Anche questo argomento sta molto agitando i rapporti tra governo e regioni. E proprio a proposito, e quindi partendo dal FAS, abbiamo chiesto al presidente Errani che cosa ne è stato, che cosa ne sarà di questo incontro di cui si doveva parlare, discutere e evidentemente anche trovare delle soluzioni condivise con il governo. Sentiamo. Io sono in attesa, noi siamo in attesa della risposta del Presidente del Consiglio all'incontro che gli abbiamo chiesto. vedo che si parla adesso di un fantomatico nuovo piano del Sud, di risorse dei FAS, ma io ho chiesto a ministri a quanto stanno le risorse del FAS, lo sa che non è stato in grado di rispondermi nessuno. Qui si sta facendo, diciamo, un po' di confusione e questo è tutto a danno di una situazione così critica del Paese, ad una crisi che richiede interventi reali, non annunci. Io spero che ci diano questo incontro e spero che lì ci diano le risposte che noi stiamo chiedendo ormai da un mese. Volevo da lei un commento su tutto questo disordine intorno al commissariamento di Campania e Molise, anche perché so che questo era, non per le due regioni in particolare, però su tutta la sanità era un capitolo aperto e molto delicato di cui aspettavate di parlare con il governo. Ma intanto io voglio dire questo, sì, questo documento riservato del Ministero che è filtrato già la dice lunga. Io non vorrei che si volesse creare un clima d'allarme e di confusione per poi coprire il fatto che le risorse messe a disposizione delle regioni per il 2010-2011 sono decisamente sottostimate rispetto ai livelli essenziali di assistenza, cioè rispetto alle prestazioni che debbono essere garantite ai cittadini. Mi sembra un'operazione che invece di risolvere i problemi, e di problemi anche in diverse regioni, dal punto del rientro dei numeri, dei costi della sanità ci sono, ma non si risolvono con atti unilaterali. Infatti, Presidente, lei ha detto si poteva e si doveva seguire un'altra strada. Io ovviamente le chiedo quale tipo di strada, visto che comunque i problemi nella sanità di queste regioni, senza poi toccare la Calabria, che ancora non è stata commissariata, ma in cui c'è una situazione disastrosa, ricadono tutti sugli utenti. Nessuno vuole negare che vi siano problemi seri in alcune regioni. Ma per esempio i presidenti delle regioni di Campania e Molise erano pronti a sottoscrivere un accordo con i tempi e le azioni da fare per mettere sotto controllo il tema dei costi nella sanità nelle loro regioni. Ora, il fatto che siano stati nominati commissari, mi domando che cosa cambia rispetto a questo. Cambia rispetto al risultato finale? A mio parere assolutamente no. Ecco perché si poteva seguire un'altra strada e si doveva seguire un'altra strada. Perché in quelle regioni non abbiamo problemi di provvedimenti che diversamente non si porterebbero avanti. Lì i presidenti erano pronti a sottoscrivere un'intesa con i provvedimenti che si porteranno avanti. Il problema è che io considero rischioso e sbagliato mettere questa vicenda in un allarme generale dove non si capisce più chi deve fare che cosa e come deve finanziare. Questo è il problema. Io questo giochino qui non ci sto. Avete sentito il punto di vista, ovviamente molto più politico, del presidente della regione Emilia-Romagna e presidente portavoce delle regioni, Vasco Errani. Intanto vi ricordo il numero a cui potete inviare i vostri sms: 349-238-6666. Ovviamente, appunto, questo era un punto di vista molto più politico. Per approfondire invece gli aspetti tecnici della vicenda, siamo in collegamento telefonico con il professor Giovanni Fattore, docente dell'Università Bocconi e presidente dell'Associazione Italiana di Economia Sanitaria. Benvenuto professore. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, professore, partiamo dal dato ovviamente di cronaca, anche se poi appunto con lei vogliamo fare il punto un po' più tecnico su tutta questa situazione. Partiamo dalle regioni commissariate, le ultime almeno, la Campania e il Molise. Due situazioni per cui per il 2009 questo documento, questo famoso documento uscito dal Ministero del Welfare, non si sa bene come, stima un rosso per il Molise poco superiore ai 90 milioni di euro. E per la Campania da oltre 880 milioni di euro. Professore, come si arriva a queste situazioni? Cioè, concretamente, come si fa ad accumulare un rosso di questo genere? Si accumula un rosso di questo genere quando non si riesce a controllare complessivamente la spesa, vuol dire che non si riescono a controllare i fattori produttivi più importanti, che potrebbero essere il personale, la spesa farmaceutica, piuttosto che la spesa per beni e servizi. In entrambe le regioni, in questi ultimi anni, il governo politico non è riuscito a controllare la spesa in termini controllando i comportamenti delle sue aziende. Parliamo in questo caso di Campania e Molise, per non parlare della Calabria, che è un'altra regione sotto stretta osservazione. Il disavanzo complessivo degli ultimi anni parla di quasi un rosso di 2 milioni di euro. Io le chiedo, giustamente lei diceva, non si riesce a controllare la spesa, tra l'altro a danno comunque degli utenti, perché dalla Calabria molti scappano e vanno a cercare le prestazioni sanitarie in altre regioni. Sì, uno dei dati per certi aspetti più inquietanti è che gran parte delle regioni che hanno il deficit più alto sono anche le regioni che offrono meno qualità assistenziale ai cittadini. Sembrerebbe esserci addirittura una correlazione tra scarsa qualità assistenziale e deficit economico-finanziario. Questo sembra indicare un deficit nella capacità complessiva di governare il sistema sanitario in alcune regioni italiane. Qui ovviamente spero non dobbiamo solo parlare di corruzione, favoritismi, ma proprio anche di una carenza dal punto di vista politico di amministrare. Sì, secondo me non va vista in termini principalmente di criminalità, ma anzi va vista come un deficit di capacità di governo sia a livello politico sia a livello amministrativo, dicendo anche che comunque complessivamente il nostro paese non è un paese che spende tanto in sanità, tenuto conto anche della proporzione elevata di anziani nella nostra popolazione, tenuto conto anche dei livelli di spesa media pro capita negli altri paesi europei. Quindi questi 103 miliardi di euro l'anno, secondo lei, comunque sono nella media e dovrebbero essere mantenuti così come sono? Se non anche aumentati a questo punto, visto che... A mio avviso, la spesa sanitaria italiana pubblica e privata dovrà crescere nei prossimi anni se vogliamo avere un sistema sanitario adeguato rispetto ai bisogni, della popolazione. È chiaro che va fatto però anche un grandissimo sforzo per usare meglio queste risorse, soprattutto in quelle realtà dove ci sono evidenze chiarissime di sprechi e di qualità assistenziale inadeguata. Allora, rispetto al budget dobbiamo dire che si registra un deficit di quasi 4 miliardi e di questo oltre l'80% è riconducibile a 6 regioni che sono tutte nel centro-sud, a partire dal Lazio. Però prima, mentre parlavamo solo io e lei, lei giustamente mi diceva c'è anche bisogno di sottolineare quali sono i dati, gli aspetti positivi, i dati positivi che vengono da alcune regioni del sud. Sì, non tutte le regioni del sud sono in dissesto economico-finanziario e anche all'interno delle regioni citate precedentemente ci sono aree dove ci sono evidenze di efficienza e anche di eccellenza assistenziale. Il problema è come diffondere queste esperienze positive e come gestire meglio un sistema che sia fortemente decentrato, ma che non in tutte le realtà poi ha le competenze e le risorse, soprattutto professionali, per gestire questi maggiori livelli di autonomia. Senta professore, io volevo chiederle anche questo, perché negli ultimi paio anni nella sanità ci sono state una sorta di rivoluzione, ad esempio mi viene in mente da quando alcuni direttori sanitari sono diventati un po' dei manager per gestire le proprie ASL, ma questo non ha comportato anche dei miglioramenti un po' su tutto il territorio nazionale? Ma io penso che la cosiddetta rivoluzione manageriale di metà degli anni 90, che ha portato l'idea di azienda dentro il sistema sanitario, sia stata positiva, abbia migliorato notevolmente i livelli di efficienza, anche chiaramente anche creato in alcune situazioni specifiche degli eccessi. Quindi la strada intrapresa è una strada giusta, che probabilmente dovrebbe essere intrapresa anche da altri settori della pubblica amministrazione. Certo che le risorse devono essere adeguate, certo è che alcune aree del paese probabilmente si sono trovate in una posizione particolarmente critica perché non avevano le risorse professionali per gestire una situazione in cui per certi aspetti il livello centrale si era ritratto e a livello locale non esistevano le condizioni per diciamo viaggiare alla velocità di alcune regioni molto avanzate del centro-nord. Veniamo anche alle regioni del nord, perché sennò sembra sempre che facciamo un discorso che vale per metà del paese. Ci sono problemi anche al nord, si parla di un rosso di circa 200 milioni in Veneto, in Piemonte 300 milioni. Questo, professore, non ci vuol dire che forse bisogna mettere mano proprio all'intero sistema per cercare altri modi, altri criteri per contenere questa spesa, perché visto che mi sembra di capire che anche per il prossimo anno di ulteriori fondi non ce ne siano, tant'è che appunto le regioni hanno calcolato una sottostima della spesa 2010 in 7 miliardi, per cui bisogna fare con quello che c'è, non è il caso di rivedere proprio tutto il sistema? Ma io non sarei per affermare che l'intero sistema debba essere rivisto o radicalmente rivisto. Certo, il governo, soprattutto il governo nazionale, deve prendere una decisione riguardo al finanziamento. Se effettivamente intende portare avanti dei significativi risparmi di spesa in ambito sanitario, allora deve avere il coraggio di dire che le garanzie offerte dal Servizio Sanitario Nazionale vengono ridotte, non possono essere uguali a quelle che si potevano dare anche solo pochi anni fa con gli stessi livelli di spesa. Questa è un po' la partita difficile da giocare in questa fase. Se si vogliono mantenere le garanzie simili a quelle di altri paesi europei, bisogna inevitabilmente adeguare i livelli di spesa, sì penalizzando le spese, le regioni che sono in deficit, ma garantendo che comunque ci siano risorse adeguate, almeno in media, sul territorio nazionale per garantire quei determinati livelli di servizio. Professore, da lei volevo due parole sul caso Lombardia, perché viene sempre citato come esempio per tutte le altre regioni, visto che la regione Lombardia è riuscita a contenere i costi. Ma questo contenimento dei costi a danno di chi e di che cosa è stato fatto? Ma non so dire se proprio danno di chi e di qualche cosa. Sicuramente la regione Lombardia è stata particolarmente virtuosa negli ultimi anni nella capacità di risparmiare, di mantenere sotto controllo la spesa. Il rischio potrebbe essere quello che non sono stati fatti in questi anni adeguati investimenti per il sistema sanitario lombardo del futuro. L'ultima battuta, proprio l'ultima, sul federalismo fiscale. Lei ritiene che questo potrebbe aiutare anche dal punto di vista della sanità le regioni ad essere più competitive tra di loro e a offrire migliori servizi? Entro certi limiti il federalismo fiscale potrebbe aiutare a responsabilizzare maggiormente tutte le regioni italiane, quindi stimolarle a utilizzare meglio le risorse a disposizione. Oltre certi limiti potrebbe creare dei grossissimi problemi di equità e di differenze di accesso ai servizi tra le diverse popolazioni del paese. Beh, tanto per questo dovremmo aspettare ancora un po' per capire come poi verrà strutturato questo federalismo fiscale. Nel frattempo ringrazio il professor Giovanni Fattore, professore della Bocconi e presidente dell'Associazione Italiana di Economia Sanitaria. Grazie per essere stato con noi. Buon pomeriggio a tutti. E allora ci siamo fatti aiutare dal professore per capire anche gli aspetti tecnici di questi enormi, imponenti deficit, anche se c'è qualcuno che ci scrive: prima si chiamava rubare, ora si chiama deficit. Sono senza parole, bisogna vedere anche i punti di vista, bisogna vedere anche le realtà locali, non è solo rubare, forse il problema sarebbe anche da un certo punto di vista più semplice, a volte è proprio la mancanza di competenza, la mancanza di capacità di amministrare certe realtà. E quindi poi ovviamente ci si lucra anche sopra, perché viene anche più semplice approfittare della mancanza di capacità altrui. le 17:37 minuti. Adesso è venuto il momento di andare a vedere che cosa è successo e sta succedendo sui mercati. Partiamo dai listini statunitensi. In questo momento il Dow Jones cede uno 0,18%, il Nasdaq lo 0,34%, lo Standard & Poor's lo 0,16%. Rispetto all'inizio della trasmissione stanno recuperando qualcosa i listini americani. In Europa cambio di segno per Parigi, più 0,18% in chiusura, Francoforte più 0,42%, Londra meno 0,06%, quindi anche qui c'è stato un recupero sul finale. Il FTSE Italia All Share ha guadagnato un punto percentuale, il FTSE MIB lo 0,92%. Con noi c'è la collega di Radio Core, Eleonora Micheli, che saluto. Buon pomeriggio, Eleonora. Buonasera a tutti. Allora, Eleonora, l'avvio questa mattina era stato sicuramente positivo, poi c'è stato un momento in cui si è avvertita una certa flessione, meno penalizzata a Milano, ma sicuramente i listini europei sì. Che cosa è successo? Sì, certo, nel primo pomeriggio è stata Wall Street che ha aperto all'insegna dell'incertezza, è andata giù e quindi questo ha incoraggiato la prudenza ovviamente anche in Europa. D'altra parte poi il sentiment è immediatamente cambiato dopo la pubblicazione del dato americano sul settore immobiliare, in particolare il dato relativo alla vendita di nuove case che a giugno sono salite dell'11%. Wall Street è migliorata e a seguire anche tutte le borse europee che così hanno ripreso a salire dopo la battuta d'arresto di venerdì scorso, battuta d'arresto che arrivava però dopo ben 9 sedute consecutive di rialzo. Allora, Eleonora, partiamo dalle banche che hanno sempre ovviamente un peso molto consistente a Milano, banche contrastate, male Intesa San Paolo, però corrono Popolare Unicredit, che succede? Sì, guarda, su Intesa San Paolo pesano una serie di fattori, innanzitutto l'esposizione nei confronti anche di risanamento che desta preoccupazione, poi quest'oggi c'è un report appunto un po' critico di Citigroup, la banca d'affari ha rivisto la raccomandazione da buy, cioè da una raccomandazione di acquisto a hold, e quindi questo ha dato il là appunto a una serie di ordini in vendita. Peraltro sono state deboli anche se hanno cercato di riscattarsi sul finale MPS che sul finale ha perso lo 0,16% e Banca Popolare di Milano che comunque alla fine ha guadagnato lo 0,24%, sempre perché Citigroup ha emesso una raccomandazione negativa. Invece diciamo questo ha favorito una serie di switch, si suol dire, cioè di ordini che sono passati, cioè chi ha venduto le azioni di Intesa piuttosto che di MPS ha finito per acquistare Unicredit che non a caso ha guadagnato il più 2,5%. E infatti, lo dicevi anche tu, Unicredit è stato tra i migliori titoli, più 2,51%, ricordiamo che Intesa invece ha terminato la seduta con un calo dello 0,8%. Per quanto riguarda Fiat, bisogna dire che debole sì, ma in sostanza tutto il settore oggi non è andato molto bene, tant'è che penso sia anche uno dei fattori che ha un po' influenzato i mercati europei, quello delle auto. Esatto, il sottoindice Stoxx 600 del comparto auto ha accusato la peggior performance scivolando del 2,5%, Fiat quindi ha fatto meglio rispetto al settore europeo perdendo solamente l'1%, ovviamente però ha risentito dell'andamento debole di tutte le altre concorrenti in Europa. Andiamo avanti, bene i petroliferi, c'è da dire che il rialzo del greggio sicuramente aiuta. Sì, il valore del greggio del WTI si attesta ai massimi di 3 settimane, è in area $69 al barile, peraltro Goldman Sachs proprio oggi ha confermato stime che per fine anno il WTI potrebbe arrivare oltre gli 80, in area $85 al barile, quindi questo sostiene il prezzo del greggio, ma non solo, sostiene sulle borse tutte le aziende petrolifere, ne ha fatto per questo più 2,38% e Saipem ha vantato un progresso del dell'1,6%. Noi ci auguriamo di no, che il prezzo del greggio non arrivi agli $80-85, perché sennò per noi piccoli consumatori potrebbe essere abbastanza un disastro, una cattiva notizia. Noi andiamo avanti e andiamo a vedere, Eleonora, quelli che sono stati, Cira è stata quasi il miglior titolo per gran parte della seduta, più 1,93%, questo è il dato in chiusura e quindi non ha chiuso al vertice, diciamo, del FTSE MIB. Sì, anzi, cioè, si può dire che nel corso della seduta i titoli salivano con maggior convinzione, sono stati tra i migliori infatti delle società a maggiore capitalizzazione. Oggi a riaccendere i riflettori su CIR sono stati i conti delle due controllate, in mattinata sono stati resi noti i conti della controllata HSS attiva nella sanità, che ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita del 13,8%. Un utile netto balzato addirittura del 42,8%. E poi nel pomeriggio peraltro sono stati resi noti anche i dati della controllata Sorgenia, attiva in questo caso nel settore dell'energia, l'utile netto è salito del 4,3% e anche i ricavi sono saliti del 9,1%. Eleonora, c'è qualche motivo per cui l'Automatica è riuscita nel finale a chiudere come migliore sul FTSE MIB più 3,54%? Guarda, non ci sono motivi particolari, effettivamente si è impennata proprio sul finale, ma in questo mercato estivo ci sono anche molti movimenti tecnici. E perché STM è chiuso come fanalino di coda, meno 1,5%? Ma anche in questo caso non ci sono particolari motivazioni, se non il fatto che oggi è stato debole tutto un po' il settore della tecnologia, anche a livello europeo il sottoindice Stoxx 600 ha lasciato sul parterre lo 0,7%. Sono le 17:45 minuti e in compagnia della collega di Radio Cor Eleonora Micheli stiamo analizzando la giornata di borsa. Eleonora, in queste giornate appunto in cui magari ci sono un po' meno spunti, si può andare anche sul generale, sul listino generale e vedere un po' che cosa è successo anche qui. Per esempio Safilo, oggi i conti, il titolo non è andato molto bene. Sì, infatti oggi c'era grande attesa per i conti, la società di occhialeria non ha ancora reso noto la trimestrale, dovrebbe arrivare a breve. D'altra parte i titoli hanno accusato la peggior performance, meno 6,27%, si attende che i conti magari non siano brillanti, ma soprattutto si attendono anche novità sul futuro dell'azienda. Ricordiamo che ci sono trattative in corso perché entri nel capitale un socio, d'altra parte se nei mesi scorsi erano in corsa Pi Partners e Bain Capital, di recente nelle scorse settimane è rimasta in corsa solo Bain Capital, cioè chi spera in un colpo di scena, visto che anche altri gruppi avevano manifestato interesse, però d'altra parte per adesso ufficialmente in corsa per entrare nella società rimane solo Bain. Intanto anche gli analisti di una nota sim Equita hanno raccomandato andato conseguentemente cautela. E quindi oggi il titolo ha ceduto il 6,27%. È andato su invece il titolo Sopaf più 7,23%. Sì, in questo caso a riaccendere i riflettori sulla finanziaria è stato un accordo che Sopaf ha siglato con la Cassa di Risparmio di San Marino, era un accordo di cui si parlava da tempo e che mette appunto la finanziaria in una migliore condizione, visto che ha per oggetto la rinuncia da parte di Sopaf ad azioni legali nei confronti proprio della Cassa di Risparmio di San Marino e di Delta, a fronte però di un corrispettivo favorevole a Sopaf. Il mercato sembra gradire, infatti ha fatto volare le azioni di oltre il 7%. Ci sono secondo te altri spunti particolari oggi sul listino completo? Ma ci sono molti piccoli titoli che si muovono, oggi sono letteralmente volate proprio sul finale le Aedes, anche in questo caso ci si interroga sul futuro della società, ricordiamo che è una società immobiliare e dopo le sorti di risanamento c'è molto interesse nei confronti del comparto. Eh sì, effettivamente proprio volate più 95-58%. Sì, esatto. grazie Eleonora Micheli per essere stata con noi. A lei buon pomeriggio e buon lavoro. Buon pomeriggio. E noi adesso ovviamente restiamo in qualche modo a parlare di mercato, sul mercato, perché come diceva anche Eleonora, i riflettori su tutto il comparto che riguarda le costruzioni, le società immobiliari è sotto pressione e attira molta attenzione per la questione che riguarda risanamento. Oggi pomeriggio era convocato un consiglio di amministrazione alle ore 17, non è stato l'unico negli ultimi giorni, sono successe molte cose anche in questo weekend e noi ci facciamo aiutare dalla collega del Sole 24 Ore, Laura Galvagni. Buon pomeriggio Laura. Buonasera a voi. Allora Laura, partirei subito con te da questo accordo trovato dalle banche per farci spiegare appunto da te in che cosa consiste e come sono suddivisi questi 500 milioni. Allora, sono appunto 500 milioni sostanzialmente di nuova cassa che entrano nel gruppo risanamento. Di questi circa 150 milioni dovrebbero arrivare attraverso un aumento di capitale da deliberare a strettissimo giro, per cui si ipotizza già a settembre, e altri 350 milioni arriveranno invece attraverso l'emissione di un convertendo, che in realtà altro non sarebbe che la conversione degli attuali debiti in un prestito convertendo. Il prestito convertendo è un prestito che a scadenza sostanzialmente viene trasformato in equity e quindi può essere paragonabile ad un aumento di capitale. Nel corso del weekend si è studiato sostanzialmente questa ipotesi di lavoro, gli incontri sono stati numerosi, si parla anche di un stop and go avvenuto ieri sera perché Zunino pare che abbia chiesto che vengano messi in garanzia anche i debiti che lui sostanzialmente ha contratto a monte di risanamento, sia nelle sue holding personali. Anche in questo caso l'esposizione di Zunino è abbastanza elevata, perché si parla di cifre abbastanza vicine ai 500 milioni. Vista l'attuale situazione, non è in grado di far fronte agli oneri nemmeno nelle holding, e certo, quindi si ipotizza che si possa valutare anche una manovra ai piani alti della catena. Allora, intanto ricordiamo le banche maggiormente esposte e coinvolte: Intesa San Paolo, Unicredit, il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano. Laura, sicuramente il tempo è tiranno, perché mercoledì è attesa la sentenza, diciamo il pronunciamento del Tribunale di Milano sulla richiesta di fallimento di risanamento. Esattamente, la speranza peraltro è che sia proprio mercoledì la sentenza, perché non c'è certezza sul fatto che i giudici si esprimano in un tempo così breve, visto che l'udienza è fissata proprio per quel giorno. C'è la speranza però che ciò avvenga, anche perché, come hai detto tu, i tempi sono strettissimi e risanamento ha indubbiamente necessità di avviare il piano di ristrutturazione. Mercoledì appunto ci sarà quest'udienza, l'idea o più o meno quello che si è riusciti a capire è che in realtà in un qualche modo sia l'advisor che le banche coinvolte abbiano mantenuto una sorta di filo diretto con la procura per cercare di mettere in piedi una sorta di piano che sia aggressivo anche alle procure, per cui che non incontri lo sfavore della magistratura nel momento in cui verrà presentato al giudice. Ecco, sui giornali, Laura, era circolata un'ipotesi di richiesta di slittamento da parte di pronunciamento da parte del Tribunale, cioè di far slittare questa pronuncia di fallimento di almeno un mese per cercare di mettere a punto, per limare ancora di più questo piano messo a punto dalle banche, questo piano di salvataggio. Ti risulta? Sì, l'ipotesi è sostanzialmente, è ancora tutta da dimostrare, ma sarebbe quella di chiedere alla Procura un po' più di tempo, quindi di rimandare l'udienza sul fallimento di circa 3 o 4 settimane per avere modo di mettere a punto nei dettagli il piano di ristrutturazione della società, anche perché va detto che la richiesta di fallimento da parte della procura è avvenuta circa una decina di giorni fa. Le banche coinvolte sono tantissime, metterle d'accordo tutte su un piano di ristrutturazione così complicato non è facile. Eh sì, certo, perché poi insomma ognuna di loro vorrà anche non perdere tutto ciò che ha investito nella società risanamento. Decisamente, anche perché sono molti soldi. Anche italiane sono esposte per 1,8 miliardi. Senti Laura, quali sono i punti più critici, quelli che maggiormente impensieriscono le banche? Mi riferisco, immagino in questo caso, ai due progetti su Santa Giulia, anche tutta l'area di Sesto San Giovanni. Sì, sicuramente sono i due nodi da sciogliere. Sono da un lato due progetti dal punto di vista architettonico e di sviluppo urbano sicuramente avveniristici. Dall'altro sono due progetti che presentano ancora numerose incognite, molto costosi, e in questa fase in cui l'immobiliare, in cui appunto il settore immobiliare non è così positivo, non va così bene, è evidente che si cerca anche di tirare il freno su iniziative magari troppo esose. Una delle soluzioni che si era previste per l'ex area Falco, sia per Sesto San Giovanni, era quella di costituire un fondo immobiliare dove far confluire il progetto sostanzialmente per poi realizzare tutte le banche assieme e lo sviluppo dell'area. E Laura, per quanto riguarda invece il bond da 220 milioni che ha scadenza nel 2014, che succede in pratica se dovesse essere subito dichiarato il fallimento della società? A quel punto, se dovesse essere dichiarato il fallimento della società, allora tutte le persone che hanno sottoscritto questo bond hanno facoltà di rivalersi immediatamente, quindi di chiedere la conversione immediata del debito e quindi di riottenere sostanzialmente quanto investito. È per questo che una delle condizioni fondamentali di questo piano era quello di mettere in garanzia il bond, certo, ossia di fare in modo che comunque il pagamento della cedola e poi la conversione a scadenza fosse assicurata. In realtà questa è ancora una sorta di incognita, perché si spera che le cose si placchino sostanzialmente con questa iniezione di liquidità da 500 milioni che faccia di fatto, come dire, morire l'ipotesi di un fallimento della società. Certo, staremo a vedere che cosa succederà mercoledì e magari ci risentiremo. Ormai Laura è diventata un'abitué del programma di Focus Economia, nostra ospite molto spesso. La ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie Laura. Grazie a voi, buonasera. Intanto possiamo aggiornarvi sul fatto che è cominciato il Consiglio di Amministrazione di Risanamento, chiamato appunto ad approvare questo piano di salvataggio concordato con le banche da 500 milioni di euro per appunto evitare un fallimento che, lo ricordiamo, vale circa 3 miliardi di euro solo appunto il fallimento. La riunione è in corso nell'area di Santa Giulia, alla presenza del patron del gruppo Luigi Zunino, che potrebbe lasciare il CDA per dare appunto un forte segnale alla magistratura di discontinuità nella gestione e quindi favorire anche forse lo slittamento della decisione almeno di un mese per mettere maggiormente a punto, per limare questo piano di salvataggio. E ovviamente ci sono altre notizie un po' più di colore, sono state viste entrare diverse auto, tra cui anche quella del consulente Salvatore Mancuso e del vicepresidente pro tempore Umberto Tracanella. Vi aggiorniamo anche su un'altra vicenda su cui ci chiede anche un nostro ascoltatore, il gruppo turistico Todo Mondo. Che cosa è successo? Non partiranno le migliaia di persone che hanno utilizzato il tour operator online Todo Mondo per organizzare le loro vacanze. La società ha infatti sospeso tutte le partenze, annunciando sul suo sito di voler agire legalmente contro l'amministratore delegato Alessandro Scotti, ritenuto responsabile di un buco di milioni di euro che ha portato al fallimento del gruppo. Questa è la situazione in questo momento. Il Codacons ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica. Sicuramente nel corso della giornata ci saranno altri sviluppi di cui vi daremo conto domani. Io intanto ringrazio in regia Filippo Aureggi, ringrazio in redazione Mauro Del Corno e Barbara Bianchi. Sono rimasti proprio pochi istanti per aggiornarvi sulla situazione sui mercati in chiusura, perché ormai sono arrivate le chiusure definitive dei listini europei. Allora, Parigi chiude con un rialzo dello 0,18%, ricordiamo che questi rialzi sono stati ottenuti nelle ultime battute della seduta. Francoforte più 0,42%, Londra più 0,21%, la migliore è stata Milano, dove il FTSE Italia All Share ha guadagnato un punto percentuale, il FTSE MIB lo 0,92%. Restano attualmente in negativo i listini statunitensi, il Dow Jones cede uno 0,22%, il Nasdaq cede uno 0,44%, lo Standard & Poor's cede uno 0,22%. Vi do anche il cambio euro su dollaro, 1,4209 in questo istante. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento per domani, sempre alle 17:00.